Dario Ricci. Mille miglia di un anno ormai lontano, il giorno dà le sue prime boccate, quando sulle strade verdi e in piano urlano le grosse cilindrate. Ultime partenze al mattino, quando l'alba non è ancora sfumata, zappata di gomma e di polvere, tutta l'Italia è risvegliata. In principio un po' di ostilità, perché dicevano Stallone lo fa per l'esibizionismo, per farsi vedere. E poi dopo, quando hanno visto che vincevo sul serio, che battevo gli uomini, erano tutte entusiaste e dicevano: avete visto che anche le donne si sanno difendere, che brave anche le donne. Mentre arcangeli a noi al motore, dietro a una siepe di folla impazzita. Oddio, cercavo di essere abbastanza elegante, mi facevo farle tutte su misura, caschetti speciali, più che dei mantelli speciali, insomma, tutto quanto rosso si portava, allora bisognava essere tutti di rosso, che il colore italiano era il rosso. Per le stanze di un castello antico, 300 curve che la morte strina, e con meno 20 è punto di benzina. Fu avventuriera, donna libera, ma soprattutto viene da dire pilota, o meglio pilotessa, ecco, la prima a correre la mille miglia, da Brescia a Roma in ritorno, la targa Florio lungo le nervose strade della Sicilia e a provare a qualificarsi alla 500 miglia di Indianapolis. Parliamo oggi a Olimpia di Maria Antonietta Avanzo, la donna che tra gli anni 20 e 30 riscrisse al femminile la storia dell'automobilismo in Italia e non solo. Classe 1889, veneta di Porto Viro, proprio un secolo fa la Avanzo disputava la sua prima gara, il circuito del Lazio. 60.000 donne, convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia, acclamano al duce fondatore dell'impero. Donne fasciste, il regime potrà sempre contare su di voi! Tempi difficili, quelli per una donna al volante. In pista e su strada avrebbe dovuto vedersela con campioni come Varzi, Nuvolari o magari lo stesso Enzo Ferrari. Fuori poi il regime fascista mal tollerava eccezioni allo stereotipo della donna dedita alla prole e al focolare domestico. Silvia Cassamagnaghi, docente di storia contemporanea presso la Statale di Milano ed esperta di storia di genere, ci aiuta a capire come fu allora possibile l'emergere di questa e di altre rare figure femminili durante il ventennio fascista. Queste eccezioni alle politiche del regime venivano osteggiate formalmente, poi venivano accettate laddove ci fossero appunto caratteri straordinari. Per fare un singolo esempio, una delle figure femminili più importanti del regime fascista, la figlia di Mussolini, Edda Ciano, era considerata quasi un'icona della modernità ed era una ragazza che guidava la macchina, indossava i pantaloni, aveva tutta quella serie di eccentricità che facevano di lei una figura, proprio per la posizione sociale che ricopriva, una figura di cui il padre andava fiero, anche se la politica fascista alle donne assegnava tutt'altro ruolo. Dove il regime cercava in tutti i modi di ostacolare una vera emancipazione, dall'altra però creava in qualche modo occasioni di libertà fino allora sconosciute, per esempio l'associazionismo femminile, la possibilità di uscire di casa per andare appunto a questi raduni, piuttosto che la possibilità di praticare sport, laddove lo sport però doveva essere volto ad ottenere una certa grazia e a favorire uno sviluppo fisico armonioso e propiziare, o quantomeno a non danneggiare, le capacità riproduttive della donna, che erano lo scopo finale della presenza femminile all'interno del contesto sociale del fascismo. Gianni Cancellieri, decano del giornalismo motoristico italiano, traccia per Olimpia un profilo di Maria Antonietta Avanzo al volante. Non aveva paura di niente, Io l'ho conosciuta un giorno nel lontano 1968, quando ci fu la prima edizione della Mille Miglia Storica. Organizzarono questo percorso con le nuove berline, nelle quali erano ospitati un giornalista, a seconda appunto delle possibilità, e un personaggio pilota del passato che la guidava, e si andò a Brescia, Roma e ritorno. Io non ebbi una grande fortuna, partecipai con alla guida Antonio Brivio, che è stato uno che insomma ha vinto delle grandi cose, Targa Florio e compagnia bella, e lottò anche strenuamente con Nuvolari in qualche occasione. Altri andarono con la Maria Antonietta Avanza, però ci si conobbe un po' tutti, la comitiva era piccola in fondo, e io scambiai due parole con lei, e poi con qualcuno che l'aveva conosciuto, addirittura ci aveva un po' corso insieme. Fra questi, il, mi viene da dire leggendario, ma insomma un grande, famoso meccanico prima e poi pilota e poi preparatore di vettura Alfa Romeo anche in Inghilterra, che le fece da copilota. Lui era Ramponi, era il meccanico. Lo salutarono, auguri, mi raccomando. Quando ritornava, finì la corsa, qualcuno gli chiese, allora dice la baronessa, dice, come va? Va forte? E lui rispose, ce n'è d'avanzo. Che richiesta su un giudizio sulla velocità, dice, ce n'è d'avanzo. Pilota di talento indiscutibile, quindi la avanzo, evidenzia ancora Cancellieri. Se andiamo a guardare il suo Albodano, non è che trabocchi di vittorie, ma anzitutto non era assolutamente facile ottenerle, anche perché conta il numero dei satanati in pantaloni che le contendevano eventualmente il primato. Quindi lei ha avuto però molti piazzamenti di rilievo, è andata sul podio di diverse corse, insomma, poi è andata da Fanel in Danimarca alla Targa Florio. Poi a un certo punto si è stancata di stare col barone, ha preso sui bambini ed è andata in Australia, dove ha cambiato attività, ha aperto un'azienda modello e compagnia bella. Poi si sono accorti, frequentandola, che era appassionata di motore, gli hanno costruito una specie di percorso infernale in mezzo a pietraie e cose così, una cosa abbastanza selvaggia, e lei vinse quella cosa, e quindi fu sdannata anche nell'altro mondo. Passione e capacità, quelle di Maria Antonietta Avanzo, che attirarono l'attenzione dello stesso Enzo Ferrari, sottolinea ancora Cancellieri. Lui la cita poi come diciamo citazione storica, è importantissima, perché associa il nome di Maria Antonietta Avanzo alla sua idea di concepire, che sembrava una follia appena finita la seconda guerra mondiale, un 12 cilindri. Ricordava il motore della Packard che l'indomita baronessa guidò nel primissimo dopoguerra, avendola acquistata da Antonio Ascari. Questo per dire che aveva delle frequentazioni, diciamo, al vertice del mondo delle corse, Enzo Ferrari, Antonio Ascari, cioè era la gente che negli anni 20 sono stati dei personaggi di assoluto spicco internazionale, insomma. Ma qual è il segno, la traccia lasciata da questa donna nella storia dell'automobilismo? Direi soprattutto come donna al volante, che dimostra di poter fare le corse, battersi al massimo livello, conquistare dei podi e affermarsi. Poi ci sono state, per carità, donne via via sempre più straordinarie, direi venendo avanti, perché già negli stessi anni 30 cominciò a correre Anna Maria Peduzzi, detta la Marocchina, che è una che si permise di vincere un 500 km del Nürburgring, poi arrivando alla sorella di Stirling Moss, Pat Moss, la Marie-Claude Beaumont, la grandissima rallista Michel Mouton, e per restare alle italiane non dimentichiamo né Maria Teresa De Filippis, che ha un privato imbattibile perché è stata la prima donna a correre in una gara del mondiale in Formula 1, e tantomeno la povera Lella Lombardi, morta giovane, poverina, e purtroppo non in corsa nemmeno, che rimane l'unica finora ad avere conquistato un punticino in una gara, in un Gran Premio di Formula 1, Gran Premio di Spagna degli anni 70. E le prodezze dell'Avanzo quanto giovarono alla causa dell'emancipazione femminile? La strada da fare sarà ancora lunga, ricorda Silvia Cassamagnaghi, e richiederà l'impegno di altre eroine, anche al volante. Era ancora presto, decisamente presto, per considerate qualcosa di più che figure eccezionali, anche perché appunto le donne che scrivevano il loro nome negli albi sportivi dell'automobilismo in quegli anni appartenevano tutte o all'ambiente automobilistico in senso lato, per esempio compagna di gara di Maria Antonietta Vasso fu in alcune circostanze Carolina Nazzaro, la moglie di Felice Nazzaro, il famoso pilota dell'epoca, oppure sempre all'inizio degli anni 20 un'altra donna che si distinse era Ada Kiribiri, che invece era figlia del costruttore, per cui donne che già avevano a che fare con l'ambiente. Oppure appunto donne di un certo lignaggio come la baronessa Avanzo, ma anche Emma Firpo Borzi o Corinna Braccialini o Iole Venturi che parteciparono a delle mille miglia negli anni 30, o Dorina Colonna che pare fosse una bellezza statuaria che partecipò alla mille miglia del 1930. Oppure potevano essere anche figure veramente eccentriche, donne che provenivano da ambienti sociali già di per sé sregolati, tra virgolette. Un caso eclatante fu quello di Mimi Heimler, che nata Eugenia Spadoni era una artista, una diva dell'epoca che vantava fra i suoi numerosi amori anche una relazione con un giovane galeazzo ciano prima che sposasse appunto la figlia di Mussolini. E Mimi Heimler, che era una vedette dell'avanspettacolo, ma poi si dedicò anche al teatro impegnato, al cinema, eccetera, aveva una macchina, ma poteva permettersi di avere una macchina, di guidare una macchina, perché già era sopra le righe in qualche modo. C'era proprio una dicotomia netta fra le donne per bene, le donne, le madri e le mogli esemplari e le altre. Prendiamoci qualche istante di pausa, poi continuiamo a seguire le evoluzioni al volante di Maria Antonietta Avanzo. Olimpia. La prima mille miglia aveva una macchina americana con la guida a sinistra e con me è voluto venire De Tefé, figlio dell'ambasciatore del Brasile a Roma. Quando siamo stati, arriviamo a Brescia, mi dice a Brescia, ma io non so guidare che con la sinistra, con il volante a sinistra. E poi ci vedo poco di notte. E dice, ma caro mio, perché non me l'hai detto a Roma? Ad ogni modo ho detto, sentiamo, la fortuna guiderò io. Partiamo da Brescia, carica di fiori, mazzi, di qua, di là. Lui invece si sta attento. Lui con i fiori abbracciati me li sbatteva sempre sotto il naso, salutava la gente, buttava il bacio alla gente, sentiva il festeggiato. E allora insomma quando è stato sul monte La Radicosa, scoppia la gomma, va per distaccare la gomma, siccome era le ruote a coi raggi, la ruota resta incastrata e ci abbiamo messo 45 minuti. E per i minuti che siamo a finire la corsa, andiamo andare e arriviamo a Roma. Il giorno dà le sue prime boccate, quando sulle strade verdi e piano urlano le grosse cilindrate. Raccontava così in un'intervista alla RAI nel 1973 la sua prima mille miglia, Maria Antonietta Avanzo. La corse nel 1928 e fu, come abbiamo sentito, una vera avventura. Come del resto avventurosa fu tutta la vita di questa donna, che è stata una delle pioniere tra le donne al volante, soprattutto nelle folli e spericolate competizioni motoristiche di quegli anni, che vedevano in gara campioni come Nuvolari, Varzi e quell'Enzo Ferrari che, pur abile come pilota, cominciò già allora a maturare l'interesse per diventare quel costruttore di fama mondiale che sarebbe poi stato. Indomita Maria Antonietta Avanzo nel confrontarsi con questi maschiacci al volante, e indomita per l'appunto è il titolo della sua autobiografia, scritta da Luca Malin, appassionato veneto di auto d'epoca, che ci ha raccontato come è nata appunto la sua passione per un personaggio così singolare. Leggendo un articolo tanti anni fa, si parla ormai del 2008 più o meno, mi incuriosì appunto questa figura femminile che tra l'altro è mia conterranea, perché nacque appunto a Contarina, l'attuale Portoviro, che è in provincia di Rovigo, alla fine del 1800. dalla semplice curiosità poi è diventata una sorta di missione quasi nel voler cercare di approfondire il più possibile sulla sua vita. Tempi di pionieri quelli, e l'Avanzo, come dicevamo, era di certo in buona compagnia. I pionieri, diciamo, dell'automobilismo italiano nacquero tutti allora: Maserati, Ferrari stesso all'inizio correva anche lui, faceva parte della scuderia Alfa Romeo, così come Maria Antonietta, perché fu appunto la prima donna ad entrare nella squadra Alfa Romeo nel 1922, insieme a lui e ad Ascari. Passione per l'automobile che a Maria Antonietta era stata trasmessa dal papà. Lei aveva una sorella che era totalmente diversa da lei, perché odiava le auto, odiava l'odore della benzina, andava sempre in carrozza, mentre lei aveva subito un imprinting totalmente diverso, tant'è che era una che andava ad esempio a cavallo montando come un uomo, perché all'epoca le donne dovevano montare ad esempio alla Mazzone, no? Tenendo le gambe tutte da una parte. Lei invece cavalcava la Califourchon, come si suol dire. Lei vede probabilmente le prime gare nel Veneto, perché c'era una gara molto famosa che si svolgeva in provincia di Padova, ed è probabilmente lì che lei vede i primi campioni. Poi intorno al 19, intorno al 20 va a Roma, si trasferisce a Roma perché a Roma era già andata ad abitare la sorella, e si iscrive così per gioco a questa prima gara al circuito del Lazio, con una macchina gigantesca, perché era una SPA 3550, una macchina enorme, e a seguito, se si vedono le foto, si era portata addirittura tre meccanici, non uno. Però nonostante questo dovete ritirarsi. Sta per andare in scena una mille miglia d'eccezione. Villoresi non avrà fortuna, romperà il differenziale come Bracco, il vincitore dello scorso anno. Entrambi si ritireranno. Partono per le prime le piccole cilindrate. Ad intervallo di 30 secondi l'una dall'altra prenderanno il via 488 macchine. Ora è il turno dei grossi calibri. I primi due, Paolo Marzotto e il regista Roberto Rossellini, non termineranno la corsa. Si ritireranno rispettivamente a Modena e a Roma. Di tutt'altro stampo la sorella, che però alle auto sarà pure lei in qualche modo legata, ricorda Malin. Proprio quella Elettra lì che sposò appunto Angelo Giuseppe Rossellini, e dal cui matrimonio nacquero Roberto Rossellini, e Renzo e Marcella. Renzo fu un grande compositore musicale. Appunto attraverso la sorella si imparentò con la famiglia Rossellini, per cui visse intensamente anche il periodo della nascita del cinema neorealista. Ecco. Il nipote aveva due grandi passioni, le auto e le donne, poi anche un po' il cinema, però, e passione appunto ereditata, questa qui delle auto, delle corse, proprio dalla zia. Dura la vita al volante per Maria Antonietta, evidenzia Luca Malin. Cavalieri a parole, i rivali uomini, ma nei fatti invece, sentite un po'. Le ridevano in faccia, se non che addirittura arrivavano a sabotare l'auto. Si erano accorti che era una che correva forte. Oltretutto era anche una bella donna e benestante, per cui i piloti dell'epoca, farsi battere da una donna con quelle caratteristiche lì era piuttosto umiliante. Per cui provvedevano sapientemente a sabotare l'auto, e, ad esempio al debutto della corsa del circuito del Lazio nel 1920 le allentarono i bulloni di una ruota, e alla Targa Florio dello stesso anno le bucarono il serbatoio. Il destino la spinse fino in Australia con due figli al seguito e un volante sempre tra le mani. A un certo punto della sua vita cosa succede? Scopre il tradimento del marito. Questo intorno al 1923. E detto fatto, prende i figli, li rapisce letteralmente e decide di partire per l'ignoto all'epoca, perché fugge in Francia, viene inseguita dall'avvocato del marito e l'avvocato scopre il suo, diciamo, nascondiglio, decide di imbarcarsi, di partire per l'Oriente. Intraprende questo viaggio in nave e durante il viaggio decide di proseguire da Giava, che era la sua iniziale destinazione, decide di proseguire per l'Australia. Giunto in Australia, la prima cosa che fa proprio dichiaratamente, non si cerca neanche una casa, ma si compra subito un'auto, perché con quella lì, dice, ragionava meglio, quando era a bordo di un'auto ragionava meglio. E con quella poi inizia a girare nei dintorni di Sydney, finché si trova un terreno sul quale costruisce la sua fattoria. E attraversò anche l'Atlantico, Maria Antonietta Avanzo, per inseguire il suo sogno americano, ricorda ancora Malin. Lei aveva conosciuto l'eroe di Indianapolis, che era questo italo-americano di nome Ralph De Palma, e il quale De Palma la invitò nel 32, e la invitò appunto a Indianapolis. Lei andò negli Stati Uniti, appunto trascorse qualche mese negli Stati Uniti, provò a fare qualche giro di pista, ecco, però rimase molto impressionata da una cosa, che i piloti americani avevano la strana abitudine di bere un goccetto prima di mettersi alla guida. La qualcosa la spaventò e decise appunto di non proseguire oltre. Fece dei giri di prova, ecco, del circuito, ma non volle poi gareggiare nella corsa, che la riteneva abbastanza folle, ecco. Una corsa epica fu sul cuore verde di Gesù, sul suo costato sporco d'amore, la mille miglia del 47, corsa spacca cuore. Nel 1932 ecco la sua ultima mille miglia, anche questa non priva di colpi di scena, come raccontava lei stessa. L'ho fatta assieme a Luigi Castelbarco con una Bugatti che andava divinamente bene. Siamo partiti molto bene, insomma, abbiamo sorpassato parecchie macchine. Sul più bello che eravamo in velocità, vedo la gente che facevano gran segnali così. Noi altri credevamo che ci salutassero, vai a salutare con la mano. Ha risposto, se non che un momento mi sento tutto il fuoco, le fiamme sotto. Allora ha detto, Luigi qua stiamo andando a fuoco, gli ha dato una spinta, lui è che si è buttato da una parte, io mi sono buttato dall'altra. Dopo un momento sta macchina non è scoppiata, ma è andata tutto un incendio. In Africa arriva l'ultima corsa della carriera, non certo l'ultima emozione di una vita eccentrica ed eccezionale. Conclude la carriera nel 39 con l'ultima corsa, che è stata la Tobruk Tripoli, all'età di 59 anni, e smette di correre ufficialmente e corre solo così per diletto con le sue macchine private, ad uso privato. Entra nel mondo del cinema, nel senso che era stata invogliata un po' dalla frequentazione del nipote e anche di Luchino Visconti, perché era imparentata tra l'altro anche con i Visconti, e decide di fondare questa casa di produzione cinematografica specializzata in cortometraggi e documentari, che era la Ava Film. Si è allontanato un po' dal mondo delle corse da un certo periodo in poi. Ma qual è l'eredità che ha lasciato Maria Antonietta Avanzo? Luca Malin ce lo ricorda con un misto di orgoglio ed emozione. Una donna che correva con la sua irruenza e che otteneva dei risultati del genere all'epoca era veramente un esempio per tutte le donne che provavano e tentavano anch'esse di imitarla. Però era un esempio di emancipazione anche nella vita di tutti i giorni, nel senso che io non ho intitolato a caso il libro Indomita. Lei era effettivamente così, non solo sulle piste ma anche nella vita. La stessa Maria Teresa De Filippis, che io ho avuto la fortuna di sentire, appunto, di contattarla prima della morte, che è avvenuta nel 2016, mi raccontò che lei si era avvicinata al mondo delle corse guardando con ammirazione a Maria Antonietta. E Maria Teresa De Filippis è stata la prima donna a correre in Formula 1. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.